sangue di Dio. Non volete ascoltarmi? Che l'altro fosse innamorato di lei, lo credevo senz'altro. Che lei lo riamasse era perlomeno verosimile. Lui poi, lasciando da parte che non lo sopportavo, aveva comunque un carattere nobile, affettuoso, fedele. Poteva essere per lei un ottimo marito, poteva. Ma stranezze del teatro, anch'io ero innamorato di Desdemona, non per pura e semplice passione, no, che piccolezza, no. Lo ero come potevo, per un desiderio più intimo, più interessante, più intelligente, per vendetta, vendetta. Sospettavo infatti che il Moro si fosse infilato nel mio letto a fare il marito di mia moglie. In realtà lo pensavo anche di Cassio, ma questi non era sposato e non poteva darmi al momento il gusto di pareggiare moglie per moglie. Al momento. Il teatro. Ad un certo punto del dramma, quando ancora non è tragedia, sembra che il geloso, invidioso, sia io. Vendette. Vendette e benedette. All'interno del testo penso più volte questo argomento ad alta voce, come si fa per la scena, in alcuni dei miei cosiddetti a parte. Non so se per scusarmi di questa mia natura con gli spettatori, per cercare di far capire loro che tutto sommato anch'io avevo, ho avuto, ho le mie buone ragioni. Non volevo fare del male per il male. Facevo involontariamente del male perché mi era stato negato volontariamente del bene. Un bene dovuto. Il bene che avevo meritato. Chi al mio posto non avrebbe cercato riscatto? Chi avrebbe agito diversamente? Maledette malelingue, io sono stato, ero, sono il personaggio più sincero. Mi si riconosca questo merito. E non come poi alla fine sembra essere questo difetto. Tanto più che, a parte ammazzare, uccidere appena Roderigo, comunque già ferito, io non faccio niente. Non ho nessuna azione. Praticamente dico, materialmente, io metto gli uomini a disposizione di se stessi. Se grazie a me si sentono, si riconoscono. Gelosi, invidiosi, brutti, non dovrebbero ringraziarmi. Il mio autore mi ha voluto così, sincero. Credete che non mi pesi, che non sarebbe stato più facile farmi ammazzare tutti senza magari neanche essere scoperto alla fine? No, ma signori, no. Per me è stato pensato qualcosa di più grande, di più teatrale. A me basta parlare, soffiare aria e comporla in suoni. Signori, questa tragedia ha una voce sola, la mia. Sono anche soltanto sognato. Sputatemi in faccia. Disprezzatemi se non è così. Tre grandi di questa città si sono mossi di persona, sono andati personalmente da lui a scappellarsi, a sollecitarlo umilmente perché mi nominasse luogotenente. In fede mia io so quello che valgo. So che non merito un posto inferiore, ma lui, tronfio, lui, stronfio d'orgoglio e testardo com'è, cerca prima di non rispondere, poi, con un'allocuzione orribilmente imbottita di termini militari, elude la loro proposta e rifiuta. Dice che in verità ha già scelto il suo luogotenente. E chi è? Chi sarebbe chi? Un grande matematico, un fiorentino, un tal Michele Cassio. Uno perso dietro alle belle donne che si dannerebbe per una sottana. Uno che non ha mai comandato uno squadrone sul campo e sulle tattiche di battaglia ne sa meno di una zitella. Con tutto il rispetto per le zitelle. Uno che ha studiato, sì. Uno che merita il posto che occupa. No, signori, no. Conosce le teorie esposte nei libri e sulle quali qualsiasi pedante sarebbe in grado di sdottorare magistralmente come lui. Chiacchiere, gna gna. Chiacchiere, bla bla. La competenza militare di questa testa di Cassio è tutta qui. Ma intanto non c'è rimedio, signori. Il prescelto è lui. È la maledizione della nostra carriera. Si va avanti per simpatie, raccomandazioni e leccate di culo. Alcune volte infilandosi casualmente nel letto più utile. Volgare! Altre volte rompendo i coglioni. Volgare! Sì, ma così tanto che ti mandano avanti perché non ne possono più di averti aggrappato alle palle. Volgare, volgare, volgare, volgare, volgare. Abbiate pazienza. Se resto rivalsa. Perché se non conosci la gente giusta non ti conosce. Se non sei nel giro, non sei e basta. Monsignore, come state? Vi ringrazio umilmente. Bene, bene, bene. Perché sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Senti qui, senti qui, senti qui. ragione c'è, ma a voi non la dirò, purissime stelle, una ragione, eppure non posso, non voglio, non posso, non voglio, non posso, non voglio spargere il suo sangue, sporcare la sua pelle così bianca, bianca come la neve. Ecco, prima spegnerò questa luce, poi quest'altra. Se mai dovessi pentirmi dopo aver spento te, candela, io potrei sempre riaccenderti. Ma una volta spenta te, Desdemona, amore mio, dove mai potrei trovare il fuoco capace di riaccenderti? Spegniti, fuoco, spegniti, fuoco, spegniti, fuoco, spegniti, fuoco, spegniti, fuoco, spegniti. Brabanzio? No, con tono d'allarme. Brabanzio? No, disperazione. Brabanzio? No, terrore. Brabanzio? Meglio. Brabanzio? Sì, va abbastanza bene, tienila. Brabanzio? Occhio alla casa, Brabanzio, alla figlia, Brabanzio, Brabanzio, sveglia, sveglia, sveglia, suonate le campane prima che il diavolo vi renda nonno, ding dong dan, nonno, ding dong dan, nonno. È brutta la vecchiaia, beato chi la prova però. Brabanzio, sveglia, sveglia, sveglia, ding dong dan, chi sei? Brabanzio? Chi sei? Brabanzio? Chi diavolo sei? Chi sono? Signore, chi non sono? Chi non sono è il contrario di quello che sono, quindi sicuramente sono tutto ciò che non sono. Quindi non sono fondamentalmente, signore, oppure sono il contrario di quello che non sono. Ma vaffanculo! Allora sono uno, eh? Caro, signore, venuto ad avvisarvi che in questo preciso momento Un vecchio caprone nero sta montando la vostra bianca pecorella. Beh. Ah. Mio figlio. Che accadde, Brabanzio? Dal doge. Intendete dire? Parlate di uccidere? No. Ma sentite questo? Spero che non mi ucciderete. No, ma ho paura lo stesso di voi. No. Perché mi guardate così? Mi fate paura. Non so per quale ragione, perché non ho fatto nulla di male, ma ho paura lo stesso. I miei peccati sono d'amore per voi. La morte che uccide per amore va contro ogni legge di natura. Perché vi mordete così le labbra? Siete irriconoscibile. Siete irriconoscibile. Siete irriconoscibile. Che c'è? Che cosa c'è? No. No, non vi ho tradito. No. Non ho mai amato Cassio, se non di quell'affetto amichevole consentito anche dal cielo. No. Non gli ho mai fatto un regalo. No. Il fazzoletto. No. Forse l'avrà trovato. No. Il fazzoletto. Io non gliel'ho dato. Mandatelo a chiamare e ditegli che confessi la verità. Mandatelo a chiamare. Ditegli che confessi la verità. Che cosa, mio signore? A sua come? Disonestamente. Ma non può affermare una cosa simile. No. No. È morto. No. È morto. Cassio è stato tradito. Uccidetemi domani. Mandatemi in esilio. Lasciatemi vivere ancora questa notte. Mezz'ora soltanto. Il tempo di dire una preghiera. Rodrigo. Che c'è? Che vuoi? Dove stai andando? Vado ad affogarmi. Rodrigo, quanto sei vigliacco. Affoga i gatti e i cagnolini ciechi. Ma che ci... Rodrigo, le donne per la strada sembrano delle pitture, gatti selvatici in cucina, massaie operosissime soltanto quando sono a letto. Davvero? Sì, davvero, sono un turco semento. Si alzano per giocare e vanno a letto per lavorare. Ah, allora voglio andare a lavorare anch'io. Ecco, bravo, va, va a lavorare. Portami i soldi ed io ti farò avere quella donna. Davvero? Sì, davvero. Rodrigo, ogni donna ha un prezzo. Lei, quanto costa? Tanto. Tanto quanto? Tanto, tanto. Ecco, neanche tu mi vuoi? Anche se per motivi diversi dai tuoi, io quanto te odio il Moro. Eccomi qua. Tutto solo. Con i miei pensieri. Allora, io adesso vado a casa. Prendo tutti i soldi che ho e li porto a lui. Iago. che lo ridà a lei. Ah, Desdemona. Ah, così lei. Ah, Desdemona. Ah, vede quanto io l'amo a lei. Ah, Desdemona. Ah. Cioè, lui, Iago, mi ha spiegato che più soldi porto a lui, a Iago, e più lei, ah, Desdemona, ah, vede quanto io l'amo a lei, ah, Desdemona, ah. Cioè, lui, Iago, mi ha spiegato che come quando c'è, la consumazione obbligatoria, cioè che tu paghi prima di si può dire entrare, ecco, ho detto entrare, stare dentro e poi uscire, ma poi entrare. Rodrigo, è stata tanto virtuosa, pensi che si sarebbe innamorata del nostro generale? Ah, certo, è vero, questa è una giusta deduzione, ecco, se dice così, sì. Sei molto intelligente, complimenti. Io invece sono così, soltanto affezionato, ecco, sono fedele come una persona, ecco. Mica sono una macchina, dico, sono una persona. Ma... scusa. Quindi che si fa? Niente. Ah, va bene. Niente di diverso. Ah, va bene. Tu mi porti i soldi ed io te la faccio comunque avere. Ah, va bene. Anche se per motivi diversi dai tuoi, te l'ho detto e ridetto io quanto te odio. Il mare. Otello. Venite a letto, mio signore. Hai pregato stanotte, Desdemona. Pregare, mio signore? Sì, non voglio ucciderti. Che cosa intendete dire? Senza che la tua anima sia preparata. Parlate di uccidere? Sì, proprio così, sì. Ma non voglio, non posso, non voglio. No, no. Ma se dite questo, spero che non mi ucciderete. No. Ho paura. C'è lo stesso di voi. Una ragione c'è. Perché mi guardate così? C'è una ragione. Mi fate paura. Ma a voi non la dirò. Purissime stelle. Una ragione c'è. Non so per quale ragione. Perché non ho fatto nulla di male. Pensa. Ma ho paura lo stesso. Ai tuoi peccati. I miei peccati sono d'amore per voi. E per l'amore, appunto, morirai. La morte che uccide per amore va contro ogni legge di natura. No. Perché vi mordete così le labbra? No. Siete irriconoscibile. Siete irriconoscibile. No. Siete irriconoscibile. No. Cassio, che cosa c'è? Il fazzoletto. Cassio, Cassio, Cassio. No, no, no, non vi ho tradito. No, no, non ho mai amato Cassio, se non di quell'affetto amichevole consentito anche dal cielo. Ma Dio mio, non gli ho mai fatto un regalo. Io stesso ho visto quel fazzoletto. Il fazzoletto nelle sue mani. Forse l'avrà trovato. Cassio, il fazzoletto io non gliel'ho dato. Cassio, mandatelo a chiamare e ditegli che confessi la verità. Cassio, mandatelo a chiamare. Ha confessato. Ditegli che confessi la verità. Ha confessato. Che cosa, mio signore? Che sei stata sua. Ma sua come? Sua. Disonestamente. Sua, sua, sì. Ma sua. Non può affermare una cosa simile. Non può più, infatti. Non può più. È morto. Iago. È morto. Iago. Cassio è stato tradito. Iago. Uccidetemi domani. Mandatemi l'esilio. Lasciatemi vivere ancora questa notte. Mezz'ora. Mezz'ora soltanto. Il tempo di dire una preghiera. Un due passo, scusi, posso? Un due passo, scusi, posso? Scusi, passo, scusi. Luogotenente. Ah, caro Iago, scusa, non t'avevo riconosciuto. Perché non andiamo a farci un bel giro di guardia, eh? Ti va? Non mi va. Perché invece non andiamo a berci un bel bicchiere di vino alla salute della prima notte d'amore del nero? Otello. No. No, cosa non ti va? Ma no, andrebbe pure, andrebbe, se mi andrebbe. Ma non posso, posso, no, non posso. Posso, scusi, no, no, no. Non posso, non posso, vedi, ecco. Non posso, no, no, no, no. Non posso, no, no, no. Perché è come una malattia. Non posso mettere alla prova la mia debolezza. Sì, sì, signore, dico, bevendo, ecco. Bevendo, non posso, no. Bevendo, no, no, non posso, non posso. Ma, luogotenente, è una notte di festa. Facciamo suonare il bicchiere. Stanotte il soldato può bere. La vita ti inganna. Il soldato tua canna. I soldati sono mortali. La vita è un battito d'ali. Facciamo suonare il bicchiere, ah. Stanotte il soldato può bere. Poco, pochino, un altro cucino, pochino di qua, pochino. pochino di là, ecco che bevo tutto qua, bla bla bla bla bla, pochino di su, pochino di giù, ecco che bevo glu glu glu. Luogotenente, sei ubriaco? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Iago! Dio c'è! Piove! Piove! Venezia affonda, affonda, affonda! Ma noi, noi lotteremo fino alla morte! Innalzando i nostri colori che ci metta al profondo del cuore. Noi ragazzi di oggi, noi piove, governo e opposizione ladri, piove, meno chiese, più case. Il buco è mio e lo gestisco io. Iago, eccoti là, eh? Eccoti pure di qua, eh? Tu e Iago, il doppio di uno, sì, perché sono un matematico, ecco, due, quattro, sono un grande matematico, ma che succede? Otto, oh, oh là là. Che faccio? Aspetto? Ce la fai? Dai! 16! Fatto? 32! Uffa, sei lento! 64! Che palle! 128! Ma è facile! È facile! È molto facile! 256, cos'è? Stai sforzando il cervelletto, eh? 512, dai, se ti aiuto, dai. Dai che c'ho freddo. Mi passi l'asciugamano, quello bianco lì sul divano. 1024. 2048. 4096, vabbè, però allora 8192, 16.000. Cassio, Iago. Generale, mio generale, che succede? Non lo so, io non c'ero. E se c'ero, dormivo. E se dormivo, sognavo. E se sognavo, sognavo un'altra cosa. E se sognavo un'altra cosa, sognavo che Cassio era ubriaco. No, no, no, non lo sono. No, no, no. Rodrigo. Che c'è? Che vuoi? Altri santi? Rodrigo, ammazzalo. Thank you. nobile signore. Mio nobile signore. Mio nobile signore. Quando corteggiavate la signora? Quando corteggiavate la signora? Quando corteggiavate la signora? Quando corteggiavate la signora? Quando corteggiavate la signora? Cassio. Cassio. Quando corteggiavate la signora? Cassio. Era al corrente. Era al corrente del vostro. Era al corrente del vostro amore? Per chiarirmi un pensiero. Per chiarirmi un. Per chiarirmi un pensiero. Nient'altro. Nient'altro. Nient'altro. Nient'altro. Davvero? Davvero? Davvero? Davvero? Davvero? Onesto? Onesto? Onesto? Onesto? Onesto? Onesto? Onesto, mio signore? Per quello che so io? Per quello che so io, signore? Sapete bene che vi voglio bene. Mio nobile signore, che vuoi dirmi, Iago? Quando corteggiavate la signora, Cassio, era al corrente del vostro amore? Sì, certo, sin dal principio, ma perché me lo domandi? Per chiarirmi un pensiero, nient'altro. Quale pensiero, Iago? Non credevo che la conoscesse. Sì, invece ci è servito spessissimo da tramite. Davvero? Sì, davvero, cosa c'è di strano? Cassio non è un uomo onesto. Onesto, mio signore? Sì, onesto. Per quello che so io, signore. Iago, cos'è? Mi fai l'eco come se nel pensiero nascondessi un mostro troppo orrendo per essere svelato. Se davvero mi vuoi bene, dimmi che cosa pensi. Signore, sapete bene che vi voglio bene. I tuoi pensieri, Iago, i tuoi pensieri. Svelare i miei pensieri, signore. E se fossero, signore, ignobili e falsi, signore, se io mi sbagliassi, immaginare cose inesistenti, signore, è un vizio del mio carattere, ma voi, signore, voi, voi no, signore, voi non dovete dar credito ai miei pensieri così incerti e fantasiosi. Ne andrebbe, signore, dei vostri pensieri. Che voglio dire? Voglio dire che se uno mi ruba la borsa, ruba dei soldi, è qualcosa che non è niente. Prima erano miei, ora suoi, come prima ancora di mille altre. Ma, signore, se uno mi porta via il buon nome, l'onore, la mia reputazione, mi toglie qualcosa che non arricchisce lui e fa di me un miserabile. Che voglio dire? Difendetevi dalla gelosia. Che voglio dire? Che gli uomini dovrebbero essere quello che sembrano. E a me sembra che Cassio sia onesto. ucciso il sonno. Aspetta. Aspetta. Se t'aspetto, e poi lo so che davvero è ancora presto, devo dirtelo per forza. Aspetta. È ancora presto. Sto scegliendo le parole da scrivere nel testo, i colori della voce, le finte pause, effetto. Se t'aspetto, e poi lo so che davvero è ancora presto, devo dirtelo per forza. Qui da casa sento tutto, vedo il mare, le montagne, quella terra che non c'è, l'altalena trasparente, vuoto, pieno, tutto, niente. Tu voli, ronzi, qui vicino, so a memoria la canzone, voli e ronzi, sei qua intorno, sono io che guido il coro, ho le dita tutte intente suonare le mie corde. Non t'accorgi che non dormo, non lo vedi che son pronto, sono in camera dal letto, sono in camera che aspetto, preghiera della sera, testa sul cuscino, la mia rete non si vede. Otello, sei tu. Sì, sono io, Desdemona. Venite a letto, mio signore. Hai pregato stanotte, Desdemona. Sì, mio signore. Se ricordi qualche peccato del quale la grazia divina non t'abbia ancora assolta, prega subito che ti sia perdonato, prega. Che cosa intendete dire? Non voglio ucciderti senza che la tua anima sia preparata. Dio me ne guardi, no, non voglio uccidere la tua anima. Parlate di uccidere, sì, proprio così. Che Dio allora abbia pietà di me, così sia, con tutto il cuore. Se dite questo, spero che non mi ucciderete. Tuttavia ho paura lo stesso di voi. Siete terribile quando mi guardate così. Ma che c'è? Che c'è? Che cosa c'è? Pensa ai tuoi peccati, i miei peccati sono d'amore per voi, e per l'amore appunto, morirai. La morte che uccide per amore va contro ogni legge di natura, ma perché vi mordete così le labbra? Siete irriconoscibile, come preso da una furia sanguinaria, neri presagi. Tuttavia io spero, spero che non riguardino me. Taci e non muoverti, come volete, ma che c'è? Che c'è? Che cosa? piace. Il fazzoletto, Cassio. Tu hai dato a Cassio quel fazzoletto che mi era tanto caro. No, no, ve lo giuro. Sulla mia vita, sull'anima mia, andate a chiamare Cassio, domandatelo a lui. Dolce amore, vada, di non giurare il falso. Sei sul tuo letto di morte. Andate a chiamare Cassio, domandatelo a lui. Desdemona. Cassio ha confessato. Che cosa, mio signore? Che sei stata sua. Ma sua, come sua? Disonestamente sua. Sua, sua sì. Ma non può affermare una cosa simile, non può. Infatti non può più. A questo ha provveduto il mio fedele Iago. Otello, Cassio, è stato tradito. Non uccidetemi, non uccidetemi, non uccidetemi. Mandatemi in esilio. Lasciatemi vivere. Ancora questa notte. Uccidetemi domani. Un'ora. Mezz'ora soltanto. Il tempo di dire una preghiera. Ecco. Non chiedetemi nulla. Quello